non si firmerà, no, no, no, non si firmerà. Ho trovato! Niente contratto! Certa polvere infusa in modo che se come ti non dico ma fosse pure ornato il militare nessun contratto si dovrà firmare un pizzico soltanto ognuno vedrà chi abbiamo trovato il modo, il come, il quanto, ed il contratto. Non si firmerà, non si firmerà, no, no, no, no, non si firmerà. Farfaglia, presto! Sui mobili Rosaura ancora così vestita corri subito e fatti bella oggi un gran giorno ed ora noi il capitano glielo abbada come descrivi il paese i dintorni va va va. Thank you.